Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. La celebre cantante cantava per la seconda volta e tutto il gran mondo era a teatro. Avendo visto la cugina dalla sua poltrona di prima fila, Vronsky entrò da lei nel palco senza aspettare l'intervallo. «Perché non siete venuto a pranzo?» essa gli disse. «Mi meraviglio di questa chiaroveggenza degli innamorati», soggiunse con un sorriso in modo che lui solo sentisse. «Lei non c'era, ma venite dopo l'opera». Vronsky la guardò interrogativamente. Lei chinò il capo. Con un sorriso egli la ringraziò. La principessa Betsy uscì dal teatro senza aspettare la fine dell'ultimo atto. Era appena entrata nella sua toilette per cospargere la sua lunga faccia pallida di cipria, spalmarvela, accomodare l'acconciatura e ordinare il tè nel salotto grande, che già, una dopo l'altra, le carrozze cominciarono ad arrivare alla sua enorme casa sulla Bolshaya Morskaya. Gli ospiti scendevano sulla larga scalinata e un portiere obeso, che la mattina leggeva dietro la porta di vetro i giornali a edificazione dei passanti, apriva senza rumore l'enorme porta facendo passare coloro che arrivavano. La padrona di casa si sedette al samovar e si tolse i guanti. Spostando le sedie con l'aiuto di invisibili domestici, la compagnia si distribuì dividendosi in due parti. Vicino al samovar con la padrona di casa e all'estremità opposta del salotto, accanto alla bella moglie di un ambasciatore in velluto nero e con nere sopracciglia marcate. In entrambi i centri, come avviene sempre nei primi minuti, la conversazione procedeva a sbalzi, interrotta dagli incontri, dai saluti, dall'offerta del tè, come in cerca di qualcosa su cui fermarsi. L'effetto prodotto dai discorsi della principessa Myakaya era sempre lo stesso, e il segreto dell'effetto che lei produceva stava nel fatto che, quantunque come ora non parlasse del tutto a proposito, diceva però delle cose semplici che avevano un senso. Nella società in cui viveva, simili parole producevano l'effetto dello scherzo più spiritoso. La principessa Myakaya non poteva capire perché facesse tanto effetto, ma sapeva che era così e ne approfittava. Poiché durante il discorso della principessa tutti l'avevano ascoltata e la conversazione vicino alla moglie dell'ambasciatore si era interrotta, la padrona di casa volle unire tutta la compagnia in un sol gruppo e si rivolse alla moglie dell'ambasciatore. «Non volete proprio del tè? Dovreste passare qui da noi?» «No, stiamo tanto bene qui», rispose con un sorriso la moglie dell'ambasciatore e continuò la conversazione cominciata. La conversazione era molto piacevole. Criticavano i Karenin, marito e moglie. «Anna è cambiata molto dopo il suo viaggio a Mosca. C'è qualcosa di strano in lei», disse una sua amica. «Il principale cambiamento è che ha portato con sé l'ombra di Alexei Vronsky», disse la moglie dell'ambasciatore. «E allora, Grimm ha una favola. L'uomo senza ombra, l'uomo privo d'ombra. E per lui è il castigo di qualcosa. Non ho mai potuto capire in che consista il castigo, ma si vede che per una donna è spiacevole essere senza ombra». «Sì, ma le donne con l'ombra di solito finiscono male», disse l'amica di Anna. «Vi venisse la pepita alla lingua», disse a un tratto la principessa Myakaya, sentendo quelle parole. «La Karenina è una donna meravigliosa. Suo marito non mi piace, ma lei mi piace molto». «Perché non vi piace suo marito? È un uomo così notevole», disse la moglie dell'ambasciatore. «Mio marito dice che in Europa ci sono pochi uomini di Stato come lui». «Anche a me mio marito dice lo stesso, ma io non gli credo», disse la principessa Myakaya. «Se i nostri mariti non parlassero, noi vedremmo ciò che è. E Alexei Alexandrovich, secondo me, è semplicemente stupido. Io lo dico bisbigliando. Non è vero che tutto diventa chiaro? Prima, quando mi ordinavano di trovarlo intelligente, continuavo a cercare e trovavo che ero stupida io, dato che non vedevo la sua intelligenza. Ma non appena ho detto «è stupido, ma piano», tutto è diventato così chiaro, non è vero?» But here in Paris, April wears a different gown. You can see her waltzing down the street. The tang of wine is in the air, I'm drunk with all the happiness that spring can give. Never dreamed it could be so exciting to live. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to Alla porta si udirono dei passi e la principessa Betsy, sapendo che era la Karenina, diede un'occhiata a Vronsky. Egli guardava la porta e il suo viso aveva una strana, nuova espressione. Guardava con gioia, in modo attento e nello stesso tempo timido, colei che entrava e si alzò in piedi lentamente. Anna entrò nel salotto. Tenendosi come sempre straordinariamente eretta, con il suo passo rapido, fermo e leggero che la distingueva dall'andatura delle altre dame di mondo, e senza cambiare la direzione del suo sguardo, essa fece i pochi passi che la separavano dalla padrona di casa, le strinse la mano, sorrise e con questo sorriso si voltò verso Vronsky. Vronsky si inchinò profondamente e le avvicinò una sedia. Essa rispose soltanto con un chinar del capo, arrossì e aggrottò le sopracciglia. Ma subito, facendo un cenno rapido ai conoscenti e stringendo le mani tese, si rivolse alla padrona. «Ero dalla contessa Lydia e volevo venire prima, ma poi mi sono trattenuta. Da lei c'è Sir John, è molto interessante». «Ah, è quel missionario?» «Sì, raccontava in modo molto interessante della vita degli indiani». La conversazione, interrotta dall'arrivo, si dipanò di nuovo come la fiamma di una lampada sulla quale si soffi. «Io penso», disse Anna giocando con un guanto che aveva tolto, «io penso, se ci sono tanti ingegni quante teste, allora ci sono anche tanti tipi d'amore quanti cuori». Vronsky guardava Anna e aspettava con il cuore sospeso quel che avrebbe detto. Sospirò come dopo un pericolo quando lei pronunciò queste parole. A un tratto Anna si rivolse a lui. «Ho ricevuto una lettera da Mosca. Mi scrivono che Kitty Scherbakaia è molto malata». «Possibile!» disse Vronsky aggrottando i sopraccigli. Anna lo guardò severamente. «Questo non vi interessa?» «Al contrario, molto. Che cosa vi scrivono precisamente, se si può sapere?» domandò egli. Anna si alzò e si avvicinò a Betsy. «Sì, io volevo dirvelo», disse senza guardarlo. «Voi avete agito male, male, molto male». «Credete che non sappia d'aver agito male? Ma chi è la causa per cui ho agito così?» «Perché mi dite questo?» disse essa gettandogli un'occhiata severa. «Voi lo sapete perché», rispose egli con ardire e gioia, incontrando lo sguardo di lei e non abbassando gli occhi. «Non lui». Ma essa fu turbata. «Questo dimostra soltanto che non avete cuore», disse. ma il suo sguardo diceva come lei sapesse che lui aveva un cuore e per questo ne avesse paura. Ciò di cui parlavate adesso è stato uno sbaglio e non amore. Dovreste ricordare che io vi ho proibito di pronunciare questa parola, questa ripugnante parola, disse Anna trasalendo. Ma subito sentì che con quella frase, vi ho proibito, dimostrava di riconoscersi certi diritti su di lui e con ciò stesso lo incoraggiava a parlare d'amore. Già da molto tempo vi volevo dire questo, continuò guardandolo con decisione negli occhi e fiammeggiando tutta del rossore che le bruciava il viso. Ma oggi sono venuta apposta sapendo che vi avrei incontrato. Sono venuta per dirvi che questo deve finire. Io non ho mai arrossito di fronte a nessuno e voi mi costringete a sentirmi colpevole di qualcosa. Il viso di lui si illuminò. Non sapete forse che per me voi siete tutta la vita? Ma io non conosco tranquillità e non posso darvela. Tutto me stesso, l'amore, sì. Io non posso pensare a voi e a me separatamente. Voi ed io per me siamo una cosa sola e non vedo per l'avvenire possibilità di tranquillità né per me né per voi. Vedo la possibilità della disperazione, della sventura, oppure vedo la possibilità della felicità. Di quale felicità? Non è possibile, forse, aggiunse con le sole labbra, ma essa udì. Essa voleva dire qualcosa, ma egli la interruppe. Io chiedo una cosa sola. Chiedo il diritto di sperare, di soffrire, come adesso. Ma se anche questo non è possibile, ordinatemi di sparire ed io sparirò. Voi non mi vedrete più se la mia presenza vi è penosa. Io non voglio cacciarvi. Solo non cambiate nulla, lasciate tutto com'è, diss'egli con voce tremante. Ecco vostro marito. Effettivamente, in quel momento, Alexei Alexandrovich entrava nel salotto con la sua andatura calma e goffa. Gettato uno sguardo alla moglie e a Vronsky, si avvicinò alla padrona di casa e, sedutosi davanti a una tazza di tè, Alexei Alexandrovich si mise a parlare con la sua voce lenta, sempre nitida, nel suo abituale tono scherzoso, prendendo in giro qualcuno. «Il vostro Rambouillet è al completo», disse abbracciando con lo sguardo tutta la compagnia. «Le grazie e le muse». Ma la principessa Betsy non poteva soffrire quel suo tono sneering, come lei lo chiamava, e da padrona di casa intelligente lo portò subito verso un discorso serio sul servizio militare generale e obbligatorio. Alexei Alexandrovich si appassionò subito alla conversazione e ormai seriamente si mise a difendere il nuovo editto di fronte alla principessa Betsy che lo attaccava. Vronsky e Anna continuavano a star seduti al piccolo tavolo. «Questo diventa sconveniente», mormorò una signora, indicando con gli occhi la Karenina, Vronsky e il marito di lei. Che cosa vi avevo detto? Rispose l'amica di Anna. Ma non queste signore soltanto, quasi tutti coloro che erano nel salotto, persino la principessa Miakaya e la stessa Betsy, sbirciarono varie volte i due che si erano isolati dal circolo comune, come se ciò desse loro fastidio. Il solo Alexei Alexandrovich non guardò neppure una volta da quella parte e non fu distratto dal suo interesse per la conversazione iniziata. Notando la spiacevole impressione prodotta su tutti, la principessa Betsy mise al suo posto un'altra persona che ascoltasse Alexei Alexandrovich e si accostò ad Anna. «Mi stupisco sempre della lucidità e della precisione con cui si esprime vostro marito», disse. «I concetti più trascendentali mi diventano accessibili quando parla lui». «Oh sì», disse Anna, splendendo in un sorriso di felicità e non comprendendo nemmeno una parola di ciò che le aveva detto Betsy. Passò alla grande tavola e prese parte alla conversazione generale. Alexei Alexandrovich, dopo essere rimasto una mezz'ora, si avvicinò alla moglie e le propose di andare a casa insieme. Ma lei, senza guardarlo, rispose che sarebbe rimasta a cena. Alexei Alexandrovich salutò e uscì. Alexei Alexandrovich non aveva trovato nulla di speciale e di sconveniente nel fatto che sua moglie sedesse con Vronsky a un tavolo separato e conversasse animatamente di qualcosa. Ma aveva notato che agli altri, nel salotto, questa era sembrata per qualche motivo una cosa particolare e sconveniente, e perciò era sembrata sconveniente anche a lui. Decise che bisognava parlarne alla moglie. Ritornato a casa, Alexei Alexandrovich passò nel suo studio, come faceva di solito, e si sedette in poltrona, aprendo nel punto segnato dal tagliacarte un libro sul papismo, e lesse sino all'una, come faceva di solito. Solo che di tanto in tanto si fregava la fronte alta e scuoteva il capo, come per cacciar via qualcosa. Alla solita ora si alzò e fece la sua toilette notturna. Anna Arkadievna non c'era ancora. Con il libro sotto il braccio egli andò di sopra, ma quella sera, invece dei soliti pensieri e considerazioni sugli affari d'ufficio, i suoi pensieri erano pieni della moglie e di qualcosa di spiacevole che la riguardava. Contrariamente alla sua abitudine, non si mise a letto e, incrociate le mani dietro la schiena, si diede a camminare avanti e indietro per le stanze. Non poteva coricarsi, sentendo che prima aveva bisogno di meditare sulla circostanza sopravvenuta poco prima. Quando Alexei Alexandrovich aveva deciso fra sé che bisognava parlare con la moglie, questo gli era sembrato assai facile e semplice. Ma adesso, quando si mise a meditare sulla circostanza da poco sopravvenuta, la cosa gli parve molto complicata e spinosa. Alexei Alexandrovich non era geloso. Si trovava faccia a faccia con la vita, con la possibilità che sua moglie amasse qualcuno che non era lui. E questo gli sembrava molto assurdo e incomprensibile, perché questo era la vita stessa. Alexei Alexandrovich aveva vissuto e lavorato per tutta la sua vita nelle sfere burocratiche che avevano a che fare con i riflessi della vita, e ogni volta che si scontrava con la vita stessa si tirava da parte. I can be so much in your side, and I can see so much in there are words we both could say, but don't put your head on my shoulder, come close, close your eyes and be still, don't talk, take my hand and let me hear you. Don't talk. Alexei Alexandrovich, senza essersi svestito, camminava avanti e indietro con il suo passo regolare sul parquet sonoro della sala da pranzo, illuminata da una sola lampada, sul tappeto del salotto buio dove la luce si rifletteva solamente nel suo grande ritratto fatto da poco che stava appeso sopra il divano, e attraverso lo studio di lei, dove ardevano due candele illuminando i ritratti di parenti e amiche e i bei ninnoli che egli ben conosceva da tempo della scrivania di lei. Attraverso la stanza di lei arrivava sino alla porta della camera da letto e ritornava di nuovo indietro. Su ogni tratto della sua passeggiata, e per lo più sul parquet della luminosa sala da pranzo, egli si fermava e si diceva «Sì, questa cosa si deve decidere e far cessare. Occorre dire la propria opinione al riguardo e la propria decisione». E tornava indietro. «Ma dire che cosa? E quale decisione?» si diceva nel salotto. E non trovava risposta. E di nuovo in salotto, prima di voltarsi, si domandava come decidere. E poi si domandava che cos'è successo. E rispondeva niente. E si ricordava che la gelosia è un sentimento che umilia la moglie. Ma poi in salotto si convinceva da capo che qualcosa era successo. I suoi pensieri, come il corpo, compivano un giro completo senza imbattersi in nulla di nuovo. Egli se ne accorse, si terse la fronte e si sedette nello studio di lei. «E la cosa più orribile, pensava, è che proprio adesso, quando si avvicina alla fine la mia opera, pensava al progetto che attualmente stava facendo passare, quando ho bisogno di tutta la tranquillità e la forza d'animo, adesso mi si rovescia addosso quest'ansia insensata. Ma che fare?» Io non sono di quelle persone che sopportano l'inquietudine e le ansie e non hanno la forza di guardarle in faccia. Devo riflettere, decidere e respingere, proferì ad alta voce. I problemi dei suoi sentimenti, di ciò che è accaduto o può accadere nella sua anima, non sono affar mio. Sono affari della sua coscienza, di pertinenza della religione. Si disse, sentendo un sollievo nella consapevolezza d'aver trovato quel punto delle norme del codice nella cui sfera rientrava la sopravvenuta circostanza. Pertanto, i problemi dei suoi sentimenti e così via sono problemi della sua coscienza, la quale non mi può riguardare. Il mio dovere, invece, si definisce in modo chiaro. Come capo della famiglia, io sono la persona obbligata a guidarla e perciò, in parte, una persona che risponde. Io devo indicare il pericolo che vedo, mettere in guardia e persino impiegare l'autorità. Io devo parlarle. E nella testa di Alexei Alexandrovich si configurò chiaramente tutto ciò che ora avrebbe detto alla moglie. Riflettendo su ciò che avrebbe detto, si rammaricò di dover impiegare il proprio tempo e le forze dell'intelligenza ad usi domestici in modo così poco appariscente. Ma nonostante ciò, la forma e lo svolgimento del discorso da fare gli si composero nella testa in modo chiaro e netto, come una relazione. Devo dire e denunciare quanto segue. In primo luogo, spiegazione del significato dell'opinione pubblica e delle convenienze. In secondo luogo, spiegazione religiosa del significato del matrimonio. In terzo luogo, se necessario, indicazione dell'infelicità che può derivare per il figlio. In quarto luogo, indicazione della sua propria infelicità. E incrociate le dita le une nelle altre, con i palmi in giù, Alexei Alexandrovich le tirò e le dita scricchiolarono nelle giunture. Questo gesto, la cattiva abitudine di riunire le mani e di far scrocchiare le dita, lo tranquillizzava sempre e gli dava quell'esattezza che ora gli era così necessaria. All'ingresso si sentì il rumore di una carrozza in arrivo. Alexei Alexandrovich si fermò in mezzo alla sala. Passi femminili salivano la scala. Alexei Alexandrovich, pronto per il suo discorso, stava in piedi stringendo le dita incrociate e aspettando se in qualche punto avrebbero ancora scricchiolato. Una giuntura scricchiolò. Ancora dal rumore dei passi leggeri sulla scala, egli udì l'avvicinarsi di lei e, benché fosse soddisfatto del proprio discorso, ebbe paura della spiegazione imminente. Elsa Agalbato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoi. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @chiocciolarai.it.